Tempo di sport di Gigi Garanzini. Pomeriggio, giornata internazionale di grande rilevanza per Juventus e Fiorentina, sono due appuntamenti cruciali, quello in casa con il Real e quello in trasferta sul campo del Bayern. Per la Roma è una vigilia durissima a Londra dopo il disastro contro l'Inter, che invece è tranquilla e può aspettare in grande serenità l'arrivo della Nortosis per domani sera a San Siro. Le intenzioni della vigilia, cominciamo da quelle di Ranieri. Parliamo sempre della Juventus, per cui quando affrontiamo una gara la facciamo sempre con la mentalità giusta, con la mentalità di voler uscire fuori in questo momento da una situazione non felice per noi. Non è che possiamo aggravarci di situazioni che potranno venire. Si gioca, voglio che i ragazzi giochino liberi da ogni condizionamento esterno, che facciano veramente una gran partita. Questo è quello che io mi auguro e quello che chiederò loro. Tutta la mia carriera è costellata da situazioni un po' particolari, in alcune sono andate con esito positivo, altre con esito negativo. Fa parte della carriera di un allenatore, è un momento difficile, ma non per questo sono una persona che si abbatte, per cui continuo lavorando al massimo di come sono abituato a fare e continuerò a fare. Fin qua Ranieri, la svolta della sua carriera potrebbe esserci davvero, anche se ovviamente nessuno gliela augura, a cominciare dai tifosi della Juventus. Prandelli è un pochino più sereno, sentiamo anche una sua vigilia più breve e con una dedica tra l'altro a Toni, insomma al giocatore su cui stasera saranno puntati in particolare i riflettori. Luca Toni è meglio sempre che non ci sia, perché lo conosciamo molto bene, però al di là della battuta è un piacere rivederlo, è un piacere vederlo in campo, perché con noi ha lavorato 2 anni in modo straordinario e sarebbe bello poterlo fare rosicare un po'. Mentre vi parlo, proprio in questi momenti leggo da un'agenzia in arrivo da Monaco di Baviera che insomma il centro di Monaco, la Marienplatz in particolare, è viola in questo momento. Ci sono più di 5.000 tifosi della Fiorentina che stanno circolando, stanno cantando e ballando assolutamente in allegria, con un'invasione pacifica di mercatini della città e di ristorantini bavaresi tradizionali. Siamo già collegati con il nostro ministro degli esteri, quindi buongiorno Fabio Tavenni. Buongiorno Gigi, mi hai fatto tornare ai mondiali, io che sono stato parecchio tempo a Monaco di Baviera. Ai. Invidio parecchio in questo momento i tifosi della Fiorentina, perché cioè, se c'è un posto dove è bello andare, oltre che per vedere la partita, anche per passeggiare, per stare, per passare una o due giornate così, è veramente Monaco di Baviera. Beh, una botta di nostalgia immediata per Fabio. Sì. Senti, hai detto mondiali. Allora, sì. Questa è un'ultima ora. Dati sconcertanti sono stati riferiti oggi dalla FIFA sulle 2 ultime edizioni dei mondiali. Secondo il settore medico dell'organo internazionale, gran parte dei giocatori hanno assunto in media un numero di farmaci 2 volte superiore al limite legale. Tra le sostanze più diffusi, antidolorifici, rilassanti muscolari, anestetici via endovenosa, antiallergici e integratori alimentari. I medicinali che figurano nei rapporti delle varie nazionali sono stati tutti assunti 72 ore prima di ogni partita, quindi giusto per sgombrare il campo da equivoci, non c'è nessuna scoperta di casi di doping o comunque di eccessi di farmaci rilevati da esami, ma dalle dichiarazioni stesse dei medici delle varie nazionali si è ricavato un abuso, potrei dire, di farmaci, e questo mi sembra già un dato abbastanza inquietante di suo. Sì, è molto significativo. 2 cose, l'hai già detto tu, non stiamo parlando di doping, stiamo parlando di abuso, stiamo parlando di medici, quindi stiamo parlando di dati ufficiali, quindi sono dati che provengono dalle varie federazioni. A questo punto però la Federazione Internazionale dovrebbe andare a chiedere a questi medici il perché di questo abuso di assunzione, visto che loro stessi lo hanno dichiarato. Quindi diciamo che l'hanno fatto allo scoperto e magari con anche il sospetto da parte di tutti che abbiano magari tendenzialmente dichiarato di meno più che di più di quello che è successo. La cosa però sinceramente non stupisce, perché in una competizione così serrata, che è lunga 1 mese, solo per chi vince, ma per chi invece si gioca tutto, magari in un girone di qualificazione dura 10 o 15 giorni. Ripeto, non sono stupito, credo che tutti i calciatori, ma anche soprattutto gli staff medici, debbano prendere coscienza del fatto, e non voglio andare a tirar fuori argomenti sla e quant'altro. No, no, argomenti no, non drammatici, però certo che... Però è chiaro che ogni abuso di qualsiasi cosa è già di per sé una cosa negativa. Se stiamo parlando di medicine, che solitamente fanno molto bene da una parte, ma anche molto male da un'altra, forse è il caso che magari saltare una partita ogni tanto potrebbe fare meglio che rimbottirsi di robacce. Ho proprio questa impressione. Siamo tra due tagli di massima oggi, no? Uno è il consueto riassunto della domenica internazionale, l'altro è la proiezione, a questo punto più importante, sul martedì e mercoledì internazionale. Che cosa selezioniamo in sintesi dalla domenica di Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, eccetera, eccetera? Certamente c'è stato il piccolo infortunio di Toni nella partita contro il Karlsruhe, che il Bayern di Monaco ha vinto con un gol di Klose nei minuti finali e che ha ridato un po' di fiato al campionato un po' anemico del Bayern di Monaco, che fa un po' il paio con quello della Juventus, perché Bayern di Monaco e Juventus sono i due grandi ritorni in Champions League quest'anno, mentre il Bayern di Monaco è tornato da trionfatore avendo vinto il campionato e non andando a giocare un anno in Serie B, la Juventus ha fatto un percorso un po' più lungo, però diciamo che sono i due grandi ritorni e però entrambe le squadre sono nella parte destra del loro campionato, cosa che evidentemente stupisce. Io penso anche che il Bayern di Monaco abbia tutte le possibilità ancora di rientrare, un po' di meno probabilmente la Juventus, anche perché in Bundesliga non c'è un Inter così più forte delle altre. Detto questo, il campionato inglese ha dimostrato che l'Arsenal ha fatto un po' fatica in casa con l'Everton per un tempo, ma poi quando la squadra di Wenger riesce a distendersi, la squadra di Wenger è come i 200 metristi, se riesce a passare la curva più o meno con gli altri, poi negli ultimi 60 metri è molto difficile da prendere. E per quanto riguarda il Chelsea, ha dato una straordinaria dimostrazione di forza contro il Middlesbrough in trasferta, vincendo 5-0 con Kudicini in porta, che ancora una volta è riuscito a chiudere la partita senza prendere gol, ed è in una striscia lunghissima il portiere italiano, che insomma è stato un po' dimenticato, no? Anche perché sta dietro a Peter Cech, ma comunque si è costruito una carriera solida lontano dall'Italia. Per quanto riguarda la Spagna, c'è stato soprattutto il derby di Madrid con questa vittoria che credo non abbia eguali, perché il Real Madrid ha segnato dopo 32 secondi e al 96esimo e ha vinto 2-1, una partita che Schuster dice che avrebbe potuto e dovuto vincere 5-0, perché si è molto lamentato Schuster dell'arbitraggio. In ogni caso, vincere un derby in trasferta contro un eccellente Atletico Madrid è la dimostrazione che la squadra, quando è motivata, quando sta bene, quando è in salute, è una squadra davvero difficile da battere. Certo, sì, poi c'è il rientro positivo di Grosso nel Lione, sì, certamente. Il gol che ha fruttato il pareggio a un Lione, non dico in crisi, ma certamente in flessione, ma insomma mi sposterei invece, prima di arrivare alle coppe, mi sposterei brevemente in Sud America, perché il super classico, cioè il derby tra Boca e River, stavolta è andato in maniera davvero, davvero singolare, ma soprattutto con delle conseguenze sul River che probabilmente nemmeno negli incubi della vigilia si sarebbero mai immaginati. No, certamente no. Devo dire che, avendo sia letto che anche visto dei servizi dalla partita in Argentina, ne ho dedotto che in questo momento tanto è forte l'Argentina come nazionale, tanto sono forti alcuni suoi giocatori che giocano all'estero, tanto invece siamo deboli in patria, nel senso che il derby tra River e Boca è sempre, naturalmente vale sempre il biglietto, c'è una cornice, un'atmosfera straordinaria, però la cifra tecnica complessiva è veramente molto molto bassa, e quindi cioè, a parte Riquelme, mi sembra che lì insomma, ci fosse ben poco da portare via, almeno in questo momento. Questo è vero. Comunque è un River Plate ultimo in classifica. No, beh, certamente è una notizia. È una notizia robusta. Adesso facciamo, prima di arrivare alle coppe, facciamo una sintesi dei campionati attraverso una statistica interessante. Questi non sono numeri, ma partendo dai numeri arriviamo a un ragionamento calcistico che riguarda soprattutto il calcio italiano, il campionato italiano. Perché? Perché Se prendiamo le partite giocate fino ad ora in Serie A, che sono 70 in 7 giornate, abbiamo un 59% di segni 1. Allora, questa è una linea di tendenza molto forte, che è in contraddizione rispetto alle ultime stagioni italiane e che è nettamente più alta della media dei campionati stranieri. In Spagna le vittorie in casa sono attualmente al 43%, al 45% in Inghilterra, al 44% in Germania, sono dati abbastanza omogenei, molto omogenei come vedete. In Italia si balza al 59%, ne risulta ovviamente che le vittorie in trasferta sono le più basse, sono le meno numerose in Europa, il 19% vuol dire una partita su 5 contro il 31% spagnolo, il 36% inglese e il 28% tedesco. Vuol dire che cosa, Fabio? Vista così, a me pare intanto che ci sia un rafforzamento importante, non tanto delle grandi, che tutto sommato la loro quota di vittorie casalinghe l'hanno sempre portata, la stanno portando anche adesso, anche se dobbiamo notare che la Juventus ha già perso una partita in casa, il Milan ha già perso una partita in casa, e questo significa che, insomma, diciamo che complessivamente non succede e non succederà molto spesso. Credo che questo dato sia influenzato dal fatto che ci sono squadre come il Genoa, ad esempio, che ha 4 vittorie consecutive in casa. Il Catania ha 4 vittorie consecutive in casa. La stessa Fiorentina è una squadra che ha, credo, vinto 3 partite in casa. Cioè il fattore campo nelle seconde forze. Sì, nelle medio-alte. Medio-alte è diventato davvero così importante. Ad esempio anche il Napoli è una squadra che in casa lascia veramente poco a tutti gli altri, che la Sampdoria, scusami, la Sampdoria, che è una squadra che sta facendo male, però in casa almeno pareggia e quindi non lascia vincere. Ora, non me ne voglio dei tifosi del Catania e del Genoa, sia ben chiaro, ma non è un buonissimo segnale questo, perché più vale, più il fattore campo incide e meno c'è, come dire, spettacolarità e imprevedibilità soprattutto di risultato, nel senso che se quelle 4 partite il Genoa e Catania ne avessero vinte 3 in casa e una fuori, c'è un minimo più di sorpresa, di fattore di imprevedibilità, che è uno dei sali del calcio, io trovo. No, certamente è vero, la rivoluzione iniziata con probabilmente con Arrigo Sacchi, no? Cioè con la tendenza di andare a cercare sempre e comunque la vittoria anche all'estero in Coppa e che ha dato una spinta molto importante all'atteggiamento complessivo poi del calcio italiano, credo che poi in realtà diciamo così, che alla fine del girone d'andata, se la statistica sarà uguale alla fine del girone d'andata, allora potremmo dire davvero che il fattore campo sta tornando ad avere un peso così importante. Però io credo, guardando poi tutti i dati di cui parlavi, che ci sia un altro fattore importante, cioè che sia quasi la scomparsa del pareggio. Cioè in 10 campionati che più o meno voi avete analizzato, ce ne sono almeno 8 nei quali il segno 2 è superiore al segno X. Sì. Che la cosa non stupisce più di tanto, perché in realtà è chiaro che il segno X è molto vicino a una sconfitta. Certo. Per chi gioca magari in casa, certamente sì. Però è anche vero che il segno 2 vuol dire che comunque in trasferta si vince e comunque in trasferta tante volte il pareggio può anche non accontentare. Ma difatti, l'ho detto prima, sono numeri, no, ma dai numeri si risale a delle tendenze e attraverso numeri come questi si parla in realtà di calcio. Tra tantissimi messaggi devo rispondere per forza a Francesca da Bergamo, ringraziandola per gli auguri di compleanno che mi manda per ieri, però Francesca già li compie a gennaio una volta l'anno, se me li fa compiere 2 so rovinato davvero, quindi grazie lo stesso. E siamo arrivati così alla giornata di coppe. Farei con Fabio Tavelli prima uno sguardo panoramico sul resto del programma e poi tornerei non tanto sulle italiane, ma quanto sulle avversarie delle italiane. Allora, nel panorama che cosa spicca in particolare stasera? Ma intanto lateralmente alla partita della Juventus c'è Zenit batte Borisov, che credo, ma se voi ne parliamo dopo, possa anche poi influenzare la partita. No, parliamo anche subito, tra l'altro la si può vedere, mi pare, alle 18 questa. 18:30. A parte i bresciani che guarderanno Brescia-Rimini, o Rimini-Brescia anzi. Anche i riminesi, sì. Ah, anche i riminesi, è ovvio, ma stavo parlando con un bresciano dunque. Ah, ok. Sì, Zenit batte Borisov, secondo me può essere davvero un fattore di influenza nei confronti della partita di questa sera a Torino, perché se lo Zenit non dovesse vincere, può anche darsi che il Real Madrid abbia meno urgenza, tra virgolette, molte virgolette, di vincere a Torino. Il Real Madrid poi affronterà la Juventus all'ultima giornata, quindi la Juve poi giocherà con lo Zenit in trasferta, col Bate Borisov in casa. Diciamo che un pareggio tra Zenit e Bate sarebbe un bel risultato per, per la Juventus e per il Real Madrid, che potrebbero magari, non voglio dire non combattere, però insomma, gradire di più un pareggino all'Olimpico. Ma diciamo che questo è un turno che, essendo il terzo, può già dare delle promozioni, perché la curiosità delle prime due giornate è che soltanto tre squadre, sono tutte tre spagnole, sono le due di Madrid e il Barcellona, hanno sei punti. Questo vuol dire che, insomma, chi va a nove dovrebbe avere in tasca la qualificazione. Può farcela per quanto riguarda il girone del Manchester United. Se Manchester United e Villarreal vincono in casa, secondo me chiudono di fatto i conti, perché non vedo come Celtic e Alborg possono recuperare. Anche nel girone dell'Arsenal, se il Porto e l'Arsenal dovessero vincere, l'Arsenal gioca in Turchia col Fenerbahce, il Porto gioca in casa con la Dinamo Kiev, se dovessero andare a 7-6 punti, a parer mio anche il gruppo G sarebbe abbastanza chiuso, abbastanza sistemato. Dunque, a proposito di Fenerbahce e Arsenal, c'è una buona curiosità. Volevo fare due comunicazioni di servizio velocissime. Una è che nella zona di Treviso, e me la segnalano almeno 3-4 ascoltatori, ci sono problemi, e non da oggi. Un'altra è che lo stesso sta accadendo a Osimo e dintorni, nelle Marche. Una parentesi per un'osservazione intelligente firmata Diego rispetto al discorso di prima, e cioè, più si vietano le trasferte dei tifosi, e parlo solo di quelli sani, e più la vittoria in casa diventerà una consuetudine. Anche questa è una riflessione da fare, che mi pare ci stia, no, Fabio? Può essere che incida anche questo, perché poi in campo non vanno i tifosi, lo sappiamo benissimo, il dodicesimo giocatore eccetera sono suggestioni, ogni tanto anche un tantinello demagogiche, però insomma un minimo di peso alla fine ce l'hanno. Sì, riequilibrate magari al fatto che ad esempio il Napoli ha due curve chiuse da un mese. Sì, però sì, va bene, insomma, diciamo che in percentuali non altissime, però anche questi sono dei fattori. Può essere un fattore. Su Fenerbahce e Arsenal, è curioso il fatto che stasera sia sempre abbastanza ballerina la panchina di uno che ha appena vinto a Aragonés i campionati d'Europa, li ha vinti più o meno all'età di Valcareggi. Stasera si ritrova di fronte Fabregas, che è un po' il Rivera della sua situazione, no? Cioè, è un po' il Rivera di allora, quello che fu per Valcareggi, nel senso del forse miglior talento in assoluto della sua nazionale, ma sempre o discusso o impiegato part time o a staffetta. Stasera Fabregas guida l'Arsenal e potrebbe dare forse il colpo di grazia ad Aragonés. I due non si sono mai molto amati, mi pare, neanche in questi giorni se le sono mandate a dire. No, oltretutto devo dire che Aragonés è uno che non va d'accordissimo con il resto del mondo, basti pensare a come ha trattato uno come Raul. Però credo che ad Aragonés vadano riconosciuti tanti meriti. Il fatto, oddio, a me non è simpaticissimo, soprattutto per quello che disse una volta di Henry, però credo che gli vada dato atto intanto di aver ottenuto un risultato fantastico in un'età nella quale uno potrebbe anche pensare di far altro, e poi insomma il fatto di aver avuto ancora voglia di andarsi a riciclare in un campionato meno conosciuto come quello turco, in una realtà dove certamente ha preso una valanga di soldi e a questi evidentemente Aragonés è ancora sensibile, e poi di aver avuto comunque molto coraggio, perché lui è uno che è riuscito a tenere fuori Fabregas e a farlo giocare un po' a spizzichi e bocconi, è uno che ha sempre tenuto a casa uno come Raul, che gode di una stampa discreta in Spagna, ed è del Real Madrid. Insomma, vuol dire che è uno di carattere, ecco, di grosso carattere. Fabio, in un minuto, massimo uno e mezzo, perché il Bayern può essere malleabile oppure può essere un ostacolo troppo alto per la Fiorentina, e lo stesso discorso applicato al Real per la Juventus? Ma io credo che il Real non sia malleabile, e che il Real però sia vulnerabile, perché il Real ha ogni tanto qualche amnesia dietro. Il Real è una squadra che può pescare tra Robben, Van der Vaart, Schneider e un'altra mezza dozzina di campioni, e Ranieri credo che farebbe la squadra anche con gli scarti del Real Madrid in questo momento. Quindi il Real Madrid oggi è decisamente più forte della Juventus, però il Real Madrid qualcosa ti concede. Due o tre situazioni la Juventus le può sfruttare, ed è lì che la Juve deve deve riuscire a trovare la chiave della sua partita per non perdere, soprattutto per non perdere. Ma pare il mio, un pareggio sarebbe già comunque un buon risultato. Per quanto riguarda la Fiorentina, il problema è la caratura internazionale della Fiorentina, perché Lione è un episodio bello certamente, ma Lione, la Gerland, non è uno stadio come l'Allianz Arena. L'Allianz Arena passano solo le grandi squadre, quindi la prova di maturità è una prova importante. Il Bayern di Monaco anch'esso concede tanto in difesa, non ha una difesa imperforabile, quindi credo che Gilardino una o due occasioni per fare gol ce le avrà. Detto questo, se il Bayern di Monaco comincia a mettere le marce alte e soprattutto trova ritmo, la Fiorentina deve cercare di stare in apnea il più possibile e non deve prendere assolutamente gol. Sono due partite complicate, quelle di questa sera sono due partite molto complicate. Non escludo che le italiane possano fare una eccellente figura, però dovranno fare una grande partita. Fare una partita sufficiente non basterà a nessuna delle due. Non dovrebbe bastare, è verissimo. Fabio, chiudiamo in 30 secondi con Sandro da Monza, dal quale evidentemente non si è riusciti a farci capire. Che scrive: se vince quattro partite di fila in casa sono Milan, Inter o Juve, sono squadroni. Se le vincono Catania o Genova si perde in spettacolo. Allora anche voi volete il solito calcio. Io ho l'impressione che ogni tanto bisognerebbe usare la simultanea, credo, quando si esprime qualche concetto. Radio è complicato perché l'RDS non credo possa coprire e tradurre. Io pensavo avessimo detto, però correggimi tu se sbaglio, pensavo avessimo detto che indipendentemente da chi vince tante partite in casa, è più divertente il campionato se c'è imprevedibilità, e quindi se, che siano grandi o che siano piccole, cioè nel senso che se il Genoa, il Catania o l'Inter o il Milan in casa vincono sempre, si divertono i tifosi di quella squadra, probabilmente si divertono meno gli altri appassionati perché sanno già prima come può andare a finire. Se invece il Catania o il Genoa o l'Inter o il Milan vincono indifferentemente in caso di trasferta, come più o meno sta accadendo, o comunque molto più che in Italia, in Spagna, in Inghilterra e in Germania, funziona meglio. Avevamo detto così? Avevamo detto esattamente così. Quello che hai detto tu, nel senso che il campionato è molto più spettacolare quando è più equilibrato, e la risposta al nostro amico Sandro da Monza la dà la classifica, perché una classifica che al secondo posto mette Catania, Udinese e Napoli dimostra che il campionato è comunque divertente. È certo, evidente molto. Che nessuno vuole male alle piccole, anzi io penso con nostalgia alla legge del Partenio, quando l'Avellino in casa non perdeva quasi mai. Detto questo, la Roma ha già perso una partita in casa, il Milan ha già perso una partita in casa, la Juventus ha già perso una partita in casa. Questo vuol dire che queste squadre sono capaci di andare anche fuori a vincere. Cioè, il Bologna ha vinto a San Siro, non dimentichiamocelo. Certo. Per cui vale tutto e il contrario di tutto. Beh, sono riflessioni, e a noi piace un campionato combattuto. Certo. Questo è chiaro. E non soltanto basato sui segni uno. Naturalmente. Grazie Fabio, chiudiamo questo collegamento. Chissà se Gianni da Torino è sintetico, che dobbiamo andare a dare gli aggiornamenti di borsa. Gianni, dica. Grazie Garanzini, la prima volta che riesco a parlare con lei, sono un ascoltatore abbastanza assiduo della vostra trasmissione. Grazie. Siccome lei è un esperto, volevo chiedere il parere sulla mia squadra, per cui tifo, diciamo, abbastanza appassionato, che è la Juventus. Nel senso che se ne parla in questi giorni, soprattutto a Torino, tutte le colpe si danno a Ranieri. C'è un giornale locale che lei ben conosce, che sta facendo una campagna stampa molto vigorosa su Ranieri. E quindi volevo sapere appunto un parere da lei, ritenendo che probabilmente le colpe non stanno tutte da una parte, ma secondo me probabilmente è un insieme di concause che stanno portando a questa situazione poco felice per la squadra juventina. Sì, ma insomma, quando c'è una situazione come questa, le responsabilità non sono mai di uno solo, sono di tutti, e quindi si tratta poi di stabilire le percentuali, no? Di responsabilità tra tecnico, dirigenti e quindi società, giocatori, magari anche pubblico che non ha abbastanza pazienza o che ha pensato che il ritorno alla caratura vera, storica della Juventus fosse più rapido di quanto in realtà non sia stato, o di quanto non poteva essere. Si tratta appunto di mettersi d'accordo nel distribuirle queste responsabilità. Scrive Roberto Virgini da Osimo, ringraziando i tecnici per il loro intervento tempestivo, sì che l'audio è tornato normale. Pessima ricezione invece a segnare una zona Bassano del Grappa, ed è un messaggio di Emanuele. Sandro Monza scrive: avevo capito male, e questa era la storia di prima dell'incidenza del fattore campo. Sentiamo cosa dice alla vigilia, ma ormai a poche ore dalla partita, Alessandro Del Piero. Sicuramente un momento delicato, più che difficile direi, delicato perché in queste ultime settimane a noi è successo un po' di tutto, quindi siamo venuti anche a combattere, a cercare di superare degli ostacoli anche molto difficili. E credo che sia una partita che non serve per quello che è il futuro della società o dell'allenatore o di altri, serve per noi tutti. Nessuno di noi si è mai tirato fuori di là delle responsabilità, ma dal fatto di poter dare qualcosa in più o poter riuscire a far di tutto per vincere. Quindi ci riteniamo tutti sulla stessa barca, effettivamente, e sappiamo tutti che solo insieme ce ne usciremo. Oh, il Siena, questa è un'indiscrezione di stamane del Corriere dello Sport, il Siena ha fatto sapere a Ronaldo che se vuole rimettersi in forma e tornare a giocare sarebbero ben lieti di ospitarlo. Il presidente Lombardi Stronati si è spinto oltre dicendo che la struttura senese è all'avanguardia, che Ronaldo potrebbe stilare un programma specifico per la sua preparazione atletica e se poi riuscisse a rimettersi in condizione, mezzo campionato col Siena per rifarsi la gamba, secondo lui sarebbe l'ideale per il brasiliano. Poi ci sono due belle interviste, una a Kakà e soprattutto una di Buffon al País, di cui vi darò conto. Sentirei adesso Mimmo da Varese, buongiorno. Buongiorno, volevo sapere solo un vostro giudizio. Io sono tifoso dell'Inter, l'Inter sta andando tutto bene. Solo i 25 milioni di euro spesi per Quaresma, e ne valsa la pena. Grazie, l'ascolto in radio. Sì, anche e soprattutto perché mi pare che non fossero gli attaccanti e nemmeno gli attaccanti esterni che mancavano all'Inter. Domenica hanno giocato in tre, no? Hanno giocato attaccanti Ibrahimovic, Obin e stavo facendo un po' di conto perché ogni tanto si perdono Obin e Quaresma, e fuori c'erano Cruz, Ibrahimovic, Balotelli e Mancini, quindi sono in sette. Effettivamente il settimo potrebbe sembrare pleonastico, ma sa com'è, probabilmente veniva via con poco quei 25 milioni di euro, quindi è per questo che hanno deciso che non se ne poteva fare a meno. Piero ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, io avevo già avuto il piacere di parlare con lei alla seconda di campionato, quando io sono tifoso della Juve. Sì. Le dissi che secondo me la Juve era molto inferiore a Milan e Inter, però questo niente, l'unica cosa è che questo è un momento del Piero, è un momento delicato, però secondo me bisogna non perdere la calma, ma perché comunque vada, anche se l'anno non andasse bene, potrebbe essere positivo sia per gettare le basi per un futuro, perché purtroppo bisogna rendersi conto, come dice bene Ranieri, di quello che è successo prima, e per fare una buona squadra ci vuole programmazione. Bisogna rendersi conto, nei tifosi della Juve, che non abbiamo un signore che ci può spendere 30 o 40 milioni per rinforzarci sulle ali, e quindi bisogna avere un attimo di pazienza, certo. Forse un po' di più di un attimo di pazienza, e niente, è una prova per tutti, per la società, per certo. La squadra e anche per noi tifosi, penso. Bisogna essere più bravi, cioè non si può sbagliare come si è sbagliato per esempio su Thiago e su altri, anche se è ovvio che si sbagli in buona fede, ci mancherebbe altro. Però appunto, mentre altri possono permettersi, l'ha detto bene lei, possono permettersi altre spese e possono permettersi anche, e hanno dei margini d'errore più ampi, evidentemente per investimenti robusti non, questi margini la Juventus non li ha. Problema risolto a Treviso, oggi è un bollettino addirittura. Però Massimiliano fa lo spiritoso, a Treviso problema risolto, la pubblicità si sente benissimo, vabbè Massimiliano. Invece c'è un altro allarme a Padova, su ambedue le frequenze padovane si sentono tutte le stazioni vicine, scrive un ascoltatore. Vediamo di provvedere anche lì. Dicevo, l'intervista a Kakà, France Football, dice: fino a quando sarò convinto che il mio club, cioè il Milan, avrà programmi ambiziosi, io resterò. Il giorno in cui mi renderò conto che non è più così, sarà il momento di cambiare squadra e quella sarà la fine della mia storia con il Milan. È una frase testuale in un'intervista a France Football, ma non mi sembra particolarmente minacciosa, come invece questa agenzia tenderebbe a farla passare. È l'intervista, questa, France Football, istituzionale al pallone d'oro uscente, tant'è vero che era incentrata sulle indicazioni di voto di Kakà rispetto al suo successore. Se potessi votare, ha detto Kakà, voterei per Messi, ma io non sono un giornalista, in ogni caso lui lo merita, è il tipo di giocatore che mi piace in maniera particolare. Come Cristiano Ronaldo dribbla, segna e crea, Messi fa spesso spettacolo da solo, ma credo che il favorito per i due titoli importanti vinti con il Manchester sia Cristiano Ronaldo. Poi vi darò il sunto di questa bella intervista che il Paes ha realizzato con Buffon. C'è Claudio da Pisa, buongiorno. Buongiorno, le telefono dalla Toscana come il precedente signore, però sì. È più facile trovare un juvestino in Toscana che non un sandoriano come me. Sì. Le volevo chiedere, cosa pensa di questo momento un pochino, diciamo, forse drammatico e esagerato, ma un po' problematico per la Sampdoria? Beh, qualche problema c'è, qualche disavventura credo sia alla base di questo, poi insomma basterebbe Palombo, no? Mi pare. La Sampdoria era partita benissimo in campionato, perché quel pareggio contro l'Inter nell'anticipo della prima giornata era stato più che meritato e l'Inter aveva sofferto davvero molto su tutti i piani, non soltanto su quello fisico, contro la Sampdoria. Poi un po' sono cominciate le disavventure, un po' Palombo è stato perso, no? per lungo tempo, e adesso mi pare sia questo divertente spareggio tra Torino, dico divertente perché nel calcio se ti vuole non c'è nulla di drammatico, questo divertente spareggio tra Torino e Sampdoria per riprendersi Novellino, perché poi questo è, insomma, stamattina c'è una lunga intervista a Novellino sulla Stampa. Non gufo le mie ex, dice, ma certo voglio rientrare, e quindi l'impressione è che tra De Biasi e Mazzarri si giocheranno la prossima giornata, o al massimo nel giro di due si giocheranno questa chance di restare oppure di essere sostituiti dallo stesso, e cioè da Novellino, che ovviamente ha lasciato ricordi molto migliori alla Sampdoria che non al Torino, ma in compenso col Torino ancora sotto contratto, e quindi ragionevolmente quello potrebbe essere il suo approdo. Ha ragione come Davide da Verona, che mi ha sentito elencare i sette attaccanti dell'Inter e mi ha detto: lei si sta dimenticando di Crespo. Certo, Davide, e infatti non sono sette, sono otto, a proposito di equilibri, no? e di sobrietà di investimenti e poi di risorse di conseguenza. L'intervista a Buffon del Paes, cioè del principale quotidiano spagnolo. Insomma, è in spagnolo e quindi spero che la traduzione sia abbastanza felice o comunque non troppo infelice. Però 3-4 domande e risposte significative. La prima: sono passati 13 anni, domanda, dal suo debutto. In che cosa è cambiato il football in questo frattempo? E Buffon risponde: non è già più il calcio di prima. Quello che ricordo che piaceva di più alla gente. Ha perso un po' di bellezza nel gesto tecnico e nella lentezza. È sempre più veloce, anche troppo. E questo, visto che stiamo parlando di 13 anni, no? Buffon sta parlando di 13 anni anziché di 30 o di chissà quanti, mi sembra una cosa, insomma, un rilievo significativo. Gli chiedono che tipo di portiere è e lui risponde: sono un portiere che semplifica, e tra l'altro semplifica è molto bello perché è identico come verbo in italiano e in spagnolo. Un portiere semplifica e non paro la galleria, cioè non paro per i fotografi, non paro per fare il cinema, anche questa la trovo molto bella e molto vera. Tra l'altro, gli chiedono tra l'altro se gli piacerebbe rubare qualche caratteristica ad un suo collega, ad un altro portiere, un altro guardameta, come lo chiamano là, e lui risponde: mi piacerebbe molto avere i riflessi e la capacità reattiva immediata di Casillas. È un po' più piccolino di me, per forza dico io, perché Buffon è un gigante, nel senso che Casillas è un bestione a sua volta, ma insomma è un po' più piccolino di me, e questo gli permette, dice Buffon, di avere movimenti rapidi che la mia statura non mi permette. Qual è il difensore che le trasmette e l'ha sempre trasmesso per sicurezza? Senza dubbio Cannavaro. Qual è la punta, l'attaccante contro cui ha giocato di maggior classe? Dice: il Ronaldo dell'Inter, quello davvero era un attaccante che ti ipnotizzava. Finisce Buffon alla domanda: ma oggi il calcio è davvero più pulito? Sì, io credo di sì, risponde Buffon, senza però nasconderci che al Real Madrid, alla Juventus e all'Inter, nel dubbio, un rigore glielo daranno sempre più facilmente che non a una piccola squadra. Roberto ha chiamato da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Io le rubo solo un attimo. Volevo un così fare una riflessione di questo tipo. Ci sono tutte le grandi un po' in crisi, a parte l'Inter. Però secondo me è cresciuto di molto il livello delle piccole, tra virgolette. Vedi Genoa, vedi Sampdoria, vedi Napoli, vedi tutte le squadre che di solito erano facili prede per squadre come la Juve, come il Milan, eccetera. Adesso invece viene a Genova e giochi contro il Genoa di Milito, eccetera, eccetera, e ce l'hai dura a vincere. La partita te la devi giocare fin dall'inizio. Volevo conoscere un suo parere, l'ascolto per radio, grazie. Sì, io credo che questo dipenda da due fattori, e cioè dal fatto che sono un po' più forti, indubbiamente, queste squadre, diciamo, di seconda fascia, o di prima fascia bis, e sono probabilmente un po' più deboli, perlomeno in questa fase della stagione, le squadre di primissima fascia. A ottobre è difficile che una squadra di primo livello possa già essere al massimo dei giri. Se lo è adesso, non lo può più essere nella fase decisiva del campionato, nonostante poi i richiami di preparazione che ci sono adesso con la sosta invernale. D'altra parte, quella tabella che vi leggevo prima sulla prevalenza netta del segno 1 in Italia rispetto ai paesi stranieri, significa comunque questo un ritorno al passato, perché campi come Napoli o campi come Genova, che oggi possono vantare, Catania compreso, tutte vittorie in casa, pur avendo già incontrato squadre più grosse, squadre più forti, ci riporta indietro, ci riporta a quando, alla fine degli anni 50, per esempio, andare alla Piani di Padova contro il Padova di Rocco significava uscirne tostati in due sensi, intanto, perché quelli giocavano bene e quelli menavano come Fabbri, ma tostati nel senso del punteggio. La Piani restò imbattuto non so per quanto e non so dire quante grandi squadre la caddero, cioè persero e persero anche partite con punteggi abbastanza clamorosi, ma era per l'appunto un calcio in cui il fattore campo era molto più importante, più decisivo di oggi. Questo ritorno, che per il momento è una indicazione di tendenza, perché siamo soltanto alla settima giornata, questo ritorno verso l'incidenza del fattore campo, verso una predominanza del fattore campo, a parer mio, lo ripeto, è un buon segno entro certi limiti, ma proprio certi limiti. Dicevo di Buffon che anche stasera dovrà guardare la partita dalla tribuna, e per lui ha avuto delle parole Ranieri, sentiamone. È chiaro che mi avrebbe fatto piacere vedere Gigi tra i pali, e credo che anche a lui avrebbe fatto molto piacere. Tra i due portieri devo dire che Iker, da molto giovane, si è subito meritato la maglietta del Real Madrid, molto bravo. Non è facile fare il portiere nel Real Madrid, perché spesso e volentieri ci sono delle praterie davanti a lui, per cui è un ottimo portiere, però io mi tengo il mio Gigi. Questa dichiarazione d'affetto di Ranieri, beh, forse inevitabile, ma comunque sempre gradevole, sempre un messaggio che il cui destinatario ascolta molto, ma molto volentieri. C'è un protagonista probabile, forse sicuro, della Fiorentina di stasera, che è Girardino, non solo perché ha praticamente segnato lui tutto quello che la Fiorentina ha segnato finora in campionato e in Coppa, ma perché lo stuzzica in maniera particolare questo duello indiretto con Toni, se davvero Toni non giocherà, secondo alcune indiscrezioni della vigilia. A parer mio invece Toni in campo ci sarà, e quindi sarà un confronto addirittura diretto tra i due cannonieri principali, tra l'altro, della gestione azzurra di Lippi, visto che Girardino vanta 9 gol e Toni 8 in nazionale. Stasera il fatto di incontrarsi in Coppa indubbiamente aggiungerà, come già Prandelli ha detto prima, un pizzico di pepe in più. Girardino. Come ho detto, che la Fiorentina possa fare una grandissima partita, e sicuramente sappiamo che giochiamo contro una squadra preparata, una squadra forte, con grandissimi campioni, però cercheremo di metterli in difficoltà in ogni minuto della partita e cercheremo anche di vincerla. È normale che per me è stato un traguardo importante, ma come ho detto anche dopo la partita, vista l'età, può essere anche un punto di rinizio. E ambisco a fare ancora molto bene, ancora a fare gol e a fare grandi prestazioni. Questo era Gilardino. Palombo sarà bravo, scrive Luca da Parma, ma non mi dica che la Sampdoria manca Palombo e che questo è il problema. Ma no, è chiaro che non è soltanto quello il problema, però uno come Palombo nelle prime giornate il suo posto ha dimostrato di tenerlo molto ma molto bene, era anche stato convocato in nazionale e mi pare non per caso. Mukeba ha chiamato da Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Vorrei intervenire sul centrocampo della Juve, sì. da rivale milanista. Potrebbe andare bene alla Juve quello che è successo con Ambrosini, con Albertini, nel senso che all'inizio della sua carriera Ambrosini è stato molto aiutato da Albertini. Potrebbe succedere una cosa del genere, tipo per Sissoko, in maniera tale da non prendersi tutte quelle espulsioni, ammonizioni e lasciare la Juve con uno in meno. Sissoko, io non so chi debba essere a dirglielo, certamente Ranieri, ma insomma sì, va, o trova il modo di disciplinarsi o di partite non ne finisce molto, anche perché a differenza di altri in anni passati, ma non di troppo, insomma, adesso la parità di trattamento arbitrale c'è, sicché i cartellini arrivano al primo, al secondo o al terzo intervento, una volta arrivavano all'ottavo, al decimo, se si ricorda, no? Soprattutto a centrocampo. Manca poco a chiudere, quindi oggi chiudiamo con la rubrica di Nicola Filippone, con ripasso di storia. Sembra ieri. 21 ottobre 1964. Quattro anni dopo l'esplodio di Roma, Abebe Bikila si ripete a Tokyo. L'Etiope conquista per la seconda volta consecutiva la maratona olimpica, con il tempo di 2 ore, 12 minuti e 11 secondi, che è anche il nuovo record mondiale. Bikila conferma la propria superiorità schiacciante, nonostante le condizioni fisiche precarie. Un mese prima dei giochi giapponesi aveva infatti dovuto sottoporsi a un intervento di appendicite, ritardando notevolmente la preparazione. Bikila diventa il primo atleta a vincere la maratona in 2 diverse edizioni dei giochi, un primato che sarebbe stato poi bissato dal tedesco dell'Est Waldemar Czerpinski nel 76 e nell'80. Grazie a Nicola Filippone per il suo ripasso, grazie a Mauro da Vicenza che mi ha mandato una mail e mi ha salvato, ma niente ripasso di storia oggi, grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Laura Vanossi in redazione. Buon pomeriggio.